signor Fabio è un artista disilluso. Porta capelli corti e pantaloni di velluto e se ne frega di ciò che rappresenta. Agli occhi spenti e incantati di questa gente di merda, ha tante spine nascoste nella faccia di chi si porta addosso l'esperienza e la nasconde fra il rosa della guancia in una densa, folta e massiccia barba, e non ci crede a quello che si dice, che la realtà sia davvero solo quella che si vede, che la vita sia solo un'illusione, che prima nasce, cresce, poi svanisce, infine muore, un po' confuso, a tratti incompreso, ma sa guardarsi bene da chi minaccia il suo di dietro, l'ingenuità che si porta dall'infanzia, sa conservarla bene come strumento di scoperta, a volte triste, a volte proprio eterna. Ma è grazie a questo che ha scoperto cosa non sia la tristezza e si vergogna a sentirsi sollevato quando intorno a lui vede tutto sempre fiorito. Perché non basta di vedere un tuo sorriso per capire che alla fine non è poi tutto uno schifo, e che il cemento delle vostre autostrade è ancora poco per negarci 100.000 passeggiate. Questo urla al mondo ogni sera. Sarebbe bello, dice, vivere senza paura, che la gente rincorra sempre vite, false promesse, stupidi dei partorite, e mentre vibrano le sue corde vocali in alto volano credenze popolari, e mentre tutti sono in cerca di ambizioni lui sta seduto sul divano grattandosi i coglioni. È proprio qui che Fabio perde i sensi, perché fuggire dalla gente è come fuggire da se stessi, ed ora il vuoto è padrone del suo fare, come se il senso vero fosse ancora da cercare nei mille zombie che gli mordono i neuroni, nelle frasi in latino, nei discorsi, nei sermoni, nelle strambe filosofie di vita di chi ha vissuto per sé scrivendo qualche riga. Allora urla in cerca di consensi a questi troni in cerca di comandi, e mentre stridono di rabbia i suoi denti, da qualche parte nascono nuovi politici brillanti. Siete soltanto cambi di esperimenti, siete aquiloni su cieli ormai distanti, siete campioni di stupide battaglie, siete superstiti di internet e guerre. Io pure sono, io che sono pazzo, e in tutto questo caos non ci ho capito proprio un cazzo, ed ora brucio e alimento la mia fiamma come Fenice condannata per leggende a morte eterna. Thank you.